sacco che sto in giro. Frate, è un sacco che sto in giro. Sveglia presto, prendo la valigia, chiedo a Flavio fra quanti joint giro. Solo maglia, neanche una camicia, tanto non serve che sto in tiro. Dammi il foglio che lo compilo. Frate, è un sacco che sto in giro. Coi fratelli sempre tutti fatti sul furgone che combino. Ne giriamo un po' tante, già non fa più fumo di un tombino. Anche quando non serve qualcuno l'accende e continuo. Continuo, frate, un sacco che sto in giro. Pineapple c'è sicuramente, Amnesia c'è sicuramente, Lemonade c'è sicuramente, quello che ti pare c'è sicuramente. Dici come riesco a ricordare questa scrittura a mente. Io mi chiedo come ogni volta quello che abbiamo non dura niente. Il futuro è pessimo, messi come siamo messi adesso qua è pessimo. Sembra che ci capessino, perché pensano che si può. Ma qua serve che continuo. Frate, un sacco che sto in giro. La mattina tutti in reception, la maglia bianca, la faccia peggio. L'attitudine da cazzeggio, mi manca il cane da passeggio. Poi rollo un campo che è da calcetto, abbasso lo schienale e paspiro. Frate, un sacco che sto in giro. Frate, un sacco che sto in giro. Frate, un sacco che sto in giro. Frate, un sacco che sto in giro. Frate, un sacco che sto in giro. Frigida e cerca un ristorante dove mangi bene, non è distante. Dietro, inversione all'istante. Ne ho ancora un paio in tasca, cazzo, sembra che la coltivo. Frate, un sacco che sto in giro. Sull'autostrada al mattino, senza una meta d'arrivo. Vieni, dai, suoniamo stasera dal vivo. Sempre stato vero, anche quando il vero non lo capivo. Tu fai finta col vittimismo, sei tu il vero cattivo. O portami il ghiaccio in hotel, vaffanculo fra TVP. TVP, vaffanculo fra TVP. E il sesto questo io continuo. Tale un sacco che sto in giro. Tale un sacco che sto in giro. Tale un sacco che sto in giro. Tale un sacco che sto in giro.